Prima giornata del vertice G8 a Genova e seconda giornata di protesta da parte dei manifestanti. Oggi le azioni di disobbedienza civile. Incominciamo quindi ad elencare le piazze tematiche che inizieranno a funzionare, diciamo così, tra le 10 e mezzogiorno, mentre le azioni previste di assedio del vertice dovrebbero partire dalle 14. Cominciamo dalla zona di Ponente, alle 14 partirà un corteo da Piazza Montano, ci saranno CUB, SLAI, COBAS e USI e si uniranno tutti i lavoratori che vorranno. Ancora Piazza Paolo da Novi, il secondo corteo dei lavoratori, ci si ritrovano il Network per i diritti globali, la Confederazione COBAS ed è definita la piazza degli inflessibili. Si parlerà di conflitti sociali che riguardano il lavoro e si parlerà anche di ambiente. L'appuntamento qui è per mezzogiorno, il corteo invece non si sa a che ora partirà, procederà verso la zona rossa e sarà un corteo autodifeso. I primi scontri sono cominciati nella zona dove dovevano radunarsi COBAS e Network per i diritti globali. Sono arrivati però anche gruppetti con mazze, caschi e volto nascosto e la polizia è uscita dalla gabbia. La linea in diretta ai nostri inviati Angelo Miotto e Piero Bosio. Gli scontri, come vedete, sono cominciati poco dopo le ore 12, soprattutto per quanto riguarda Piazza da Novi, dove una folla di manifestanti, guardati, coperti di volto, sono andati a spostarsi verso una piazza adiacente. Lì è stata attaccata una sede del Credito Italiano, devastate le vetrine, portati fuori i documenti e piccato fuoco. Da lì in poi la polizia è iniziata a scendere verso i manifestanti compatta e sono cominciati i primi fronteggiamenti con il lancio di lacrimogeni. Sì, io vi sto parlando da Corso Torino, in questo momento c'è un immenso fungo nero e la situazione è questa: un gruppo di 200 manifestanti è a circa 200 metri dalla polizia, in questo momento oltre a bruciare i cassonetti li sta spostando piano piano in avanti per creare una sorta di barriera tra loro e i poliziotti. Sono arrivati ormai circa 50 metri dai poliziotti, i poliziotti vedete stanno fermi e vi segnalo una cosa molto grave: circa un'ora fa il lancio da parte dei poliziotti di candelotti ed altezza a Duomo. Passiamo a sud, dove c'è a Piazza Dante il ritrovo per Attacchi Italia, l'Arci, Rifondazione, l'UDS e alcuni centri sociali creativi. Si arriverà in Piazza Dante partendo da due punti diversi a mezzogiorno, in Piazzale Kennedy oppure in Piazza Carignano e poi da lì si raggiungerà Piazza Dante. Sarà una piazza festosa, pacifica, con degli assalti virtuali che sono stati raccontati ovviamente soltanto in parte perché ci saranno anche delle sorprese. Sono a Piazzale Kennedy di fronte alla Fiera del Levante, c'è un corteo che è sostanzialmente diviso in due pezzi, dietro c'è Attacchi Italia e Attacchi Francia, davanti ci sono 1.500 giovani ragazzi di tutti i paesi europei, tedeschi, inglesi, francesi, italiani. In questo momento il commissario ha indossato la fascia, c'è stato un tentativo di mediazione di Gallo, c'è un fronteggiamento, non so se faranno uscire questo corteo oppure no. C'è anche un corteo strano, perché in mezzo ad esempio ci sono alcuni frati, o ci sono persone vestite diciamo coi sandali, calzoncini coloratissimi eccetera, e ci sono invece altre persone, altri giovani addobbati in modo più da rivolta. Non so se la mediazione di Don Gallo sia andata a finire bene, mi sembra che ritorni indietro con una mediazione non riuscita, stanno discutendo di cercare un'altra strada per uscire da questo, per così dire, cul-de-sac in cui in questo momento ci troviamo. Io mi trovo in Piazza Carignano, qui la situazione è assolutamente pacifica, festosa. L'obiettivo è quello di violare la zona rossa con palloncini colorati, con mongolfiere e con una torre di Babele in costruzione di cartapesta fatta dall'Arci. Questo è un po' il loro obiettivo. Passiamo a nord, siamo nella zona spianata Castelletto, Piazza Manin. Rete contro i G8, Rete Lilliput, Lega Ambiente, la marcia delle donne, l'azione diretta dei vari gruppi di affinità che hanno lavorato in questi mesi Ci sarà una serie di banchetti, per esempio, che riguarderanno il commercio equo e solidale, ci saranno i banchetti di Manitese, ci sarà del teatro di strada, soprattutto informazione ai passanti. Sì, i gruppi pacifisti sono scesi da Piazza Manini in collina per un intrico di vicoli. Ora sono in Piazza De Portello, si stenderanno davanti alle gabbie che proteggono la zona rossa, vogliono impedire l'accesso dei servizi a Palazzo Ducale. Davanti a loro c'è un'onda di poliziotti in assetto antisommossa. Un altoparlante continua a ripetere: questa è un'azione non violenta. Una piazza tematica di pacifisti che era partita questa mattina. La prima immagine è stata quella di un autobus di palloncini gialli, quelli di Lega Ambiente. Sono andati a raggiungere le altre associazioni pacifiste non violente a Piazza Manin. Si sono riuniti a manifestare per i diritti dei 2 miliardi e 800 milioni di persone che nel mondo vivono con $2, per i diritti dell'ambiente, per chi lavora in condizioni di sfruttamento. Verso Levante troveremo il blocco della comunità disobbediente dello Stadio Carlini, che si riconoscono nella pratica della disobbedienza civile. Citiamo la rete No Global, le Tute Bianche, i Giovani Comunisti di Rifondazione, la rete Rage di Roma, e poi ci sono degli arrivi dall'estero che sono attesi in queste ore. Si partirà dallo Stadio Carlini per dirigersi verso la zona rossa, che si cercherà di superare nella zona di via 20 settembre. Qui c'è ancora un gran lavorio per costruire le armature delle persone, con pezzi di gomma piuma, bottiglie di plastica vuote, poi ovviamente pezzi di cartone a non finire, caschi, ovviamente le parti più protette si cerca di fare in modo che siano il petto, le braccia, le gambe, la testa. Vengono anche dati consigli da uno speaker che spiega come costruirsi le armature. Si lavora anche per delle strutture più grosse, infatti la prima parte del corteo sarà protetta da degli enormi scudi di plexiglass, saranno proprio quelli utilizzati per cercare di sfondare. Di questo hanno proprio finito poco fa la simulazione. Sono messi proprio a cercare di sfondare un cordone di finti poliziotti che tiravano mazzate contro questi studi. Pare che la simulazione sia riuscita, ma evidentemente non erano manganelli. I compagni di Milano degli scudi si trovano immediatamente dietro al furgone. Il gruppo più creativo, quello che apre il corteo, si trova vicino al tunnel, all'uscita, in parte già organizzato, manca ancora un po' di persone, il gruppo di apertura. Per chi è dotato di caschi e ha già deciso che sarà dietro, c'è una parziale carenza di caschi davanti. Allora, chi sta qua davanti sono coloro che fanno la parte della polizia. Allora, per tutti i compagni del Nord. Solo spinta davanti. Quelli che stanno qui davanti sono quelli che attaccano gli scudi, il resto bisogna che state larghi, adesso le fate sul serio con la polizia voi. I DJ sono cortesemente invitati a caricare l'impianto sul camion di Angelo. Facciamo in modo che tra qualche minuto questo stadio sia vuoto e tutti i compagni e compagne siano fuori. Stiamo per muoverci, la disobbedienza civile in marcia verso la zona rossa. Segnalo un corteo dell'unità che partirà dalle 14 proprio da Piazzale Kennedy. Ci sono i sognatori e creativi.